24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Interveniamo attraverso il decreto legge sulle banche popolari, che dovranno nell'arco di 18 mesi trasformarsi in società per azioni. Trovo davvero singolare che per migliorare la provvista di credito per le aziende si interviene sulle tipologie di impresa bancaria che ha più fatto credito in questi anni al territorio, alle piccole aziende. È un provvedimento che stiamo facendo per tutte le banche italiane perché fa bene al sistema paese, al sistema italiano. Nei giorni scorsi è stata varata dal governo una riforma delle banche popolari che risponde a esigenze da tempo segnalate. Se uno vuole mettere sul mercato le banche popolari per decreto con la fiducia, Mattarella Sergio, se ci sei, sarà la tua prima occasione per dimostrare che Renzi non ti può portare tutte le porcherie che vuole sulla tua scrivania. Dunque, il tema della riforma delle banche popolari, abbiamo sentito, è caldissimo, le opinioni sono le più diverse. Sul tema, venerdì scorso noi qui a Mix 24 abbiamo sentito il ministro Padoan. Poi ho ricevuto un messaggio, un sms dall'onorevole Francesco Boccia, che è presidente della Commissione Bilancio della Camera, che con noi lo ringrazio, anche se stanotte ha fatto le 5 per il mille proroghe. Questo messaggio diceva: imbarazzanti le dichiarazioni che ha fatto Padoan venerdì. Ecco, onorevole Boccia, imbarazzante che cosa soprattutto? Buongiorno intanto. Buongiorno. E allora? La giornata non è mai finita per me. Infatti, sta continuando. Continua. Che cos'è imbarazzante soprattutto delle dichiarazioni di Padoan? Ma io trovo imbarazzante questo ragionamento che continua, va avanti. È stato fatto subito dopo il Consiglio dei Ministri, ha ripreso Padoan in quell'intervista fatta con lei. Facciamo questo decreto e ci sarà più credito alle imprese. Questa dichiarazione è una dichiarazione assolutamente incoerente e sbagliata. Ecco, ma la Consob e la Procura di Roma stanno indagando intanto sulla speculazione in borsa. Il governo dovrebbe fermarsi intanto in attesa della decisione? No, il governo deve andare avanti, ma facendo una riforma utile al paese e non a qualche banca o a qualche gruppo di interesse. Ecco, risentiamo il ministro Padoan. Erano forse 20 anni che questa riforma stava nel cassetto di molte persone coinvolte che non prendevano le decisioni. L'integrazione finanziaria globale ed europea sta avanzando, il meccanismo di sorveglianza istituzionale sta passando in mani europee e questo è un bene, però questo richiede che gli istituti bancari si attrezzino ad essere più competitivi. Ecco, la caratteristica dell'urgenza sta in questo. Non credo proprio che si possa dire che è effetto del decreto, cioè la speculazione. Stiamo parlando delle popolari più grandi che già hanno una dimensione internazionale, quindi si aiuta questo processo. La dimensione di legame col territorio, che è un valore importantissimo, sarà salvaguardata. Non è escluso che si possano pensare miglioramenti della misura. Ecco, quali dovrebbero essere, onorevole Boccia, secondo lei, i miglioramenti per non essere imbarazzante? Intanto, se parliamo di credito, parliamo di credito. Si mescola l'aumento del credito alle imprese, che è una cosa che tutti vogliamo, e si fa, a mio avviso, facendo altro. Cioè facendo cosa? Intanto ipotizzando un grande fondo di garanzia vero che consente a tutte le banche italiane, a tutti i confidi, a tutti gli operatori finanziari di trasformare i debiti a breve termine che tutte le imprese italiane hanno, soprattutto le piccole, in debiti garantiti a medio e lungo termine. Se noi consentiamo alle imprese italiane di togliersi questa spada di Damocle che hanno dei debiti a breve e li trasformiamo in debiti a medio lungo, noi abbiamo fatto gran parte del nostro lavoro e soprattutto abbiamo ridotto la quota di crediti a rischio delle banche. Ecco, ma e invece questo provvedimento non... Questo provvedimento è un provvedimento che, quando Padoan fa riferimento alla necessità di rendere la governance delle popolari più fluida e più trasparente, siamo tutti d'accordo, ma una cosa è renderla più fluida e trasparente, un'altra è aprire le popolari che hanno alcune caratteristiche. Le popolari non nascono a caso, nascono perché il capitalismo italiano è familiare e territoriale. Allora, sì, se questo ragionamento lo si fa per le banche quotate, lo capisco e voglio entrare nel merito. Se lo si fa per le banche popolari vigilate dalla Banca Centrale Europea, lo capisco. Non lo capisco per tutte le altre e non capisco la demagogia quando tocca in generale, indirettamente, il sistema delle popolari e anche il credito cooperativo. Ecco, ma in Germania la Merkel però ha difeso le popolari, noi non le abbiamo difese, lo sta dicendo lei. Perché secondo lei? Quali sono gli interessi che stanno sotto? Perché un modello bancario non nasce per caso, legato al tipo di capitalismo. Naturalmente, ma dico, perché noi, perché la Germania l'ha difesa e noi non lo difendiamo? Semplicemente perché in Germania c'è maggiore attenzione alla politica verso gli interessi collettivi. Senta, lei è favorevole alla bad bank? Dipende da chi paga. Cioè? Se pagano indirettamente i cittadini contribuenti, no. Se pagano gli azionisti, sì. Senta, l'obiettivo della riforma così come è pensato è di rendere le popolari scalabili, acquistabili in qualche modo? Secondo lei? Mi pare di sì, mi pare evidente, riguarda 10 banche, io penso, e lo ribadisco, non mi sembra coerente con l'obiettivo dichiarato sia da Padoan che da Renzi, e cioè meno banchieri più credito. Intanto i banchieri sono 10. Poi vedremo se rientrano tutti e 10 in questo provvedimento, perché io penso che debba essere limitato solo, come ho già detto prima, alle vigilate BCE o a quelle quotate in borsa, perché hanno certe caratteristiche, hanno deciso loro di aprirsi a forme diverse di reperimento delle risorse finanziarie. E poi però c'è tutto il resto del mondo finanziario, che ha caratteristiche territoriali connesso al capitalismo. Vabbè, ma quelle non sono coinvolte. Sì, però diciamo questo era l'antipasto, è stato più volte detto che bisognava mettere le mani sulla governance. Se metti le mani sulla governance delle grandi, poi se sei coerente devi metterlo anche sulla governance. Vabbè, delle però piccole. Però per adesso il... Sì, no, ma io guardi, sulla governance sono convinto che vada fatto questo sforzo. Quello che non mi convince... Ma quindi il fondo della sua critica qual è? Il fondo della sua critica, per cui imbarazzanti sono le dichiarazioni, il punto preciso, perché il ministro Padoan ha detto che nessuno vuol farle finire nelle fauci degli stranieri, ecco, lei ci crede? Ma guardi, è inevitabile che se si modificano le regole, che io sono disposto a modificare, ma con dei paletti, e cioè qual è la quota massima che può detenere un socio? Io dico non più del 3%. Se ci mettiamo il 5, il 10 o il 15, è chiaro che i fondi di investimento entrano dentro, comprano, si allargano e poi decidono di... E quindi nasce un pericolo di svendita, le prime privatizzazioni sostanzialmente. Sì, oppure fanno una banca globale che va benissimo, magari... Ma perché va benissimo anche, la banca globale? Bene, ma non finanzierà, ecco. Non finanzierà le imprese che hanno le caratteristiche territoriali a cui facevo riferimento prima. Cioè non ci sarà il rapporto diretto con le imprese, con le piccole e medie imprese, il territorio, che è poi la caratteristica del capitalismo italiano. E questo è il pericolo, secondo lei? Questa è la critica di fondo, imbarazzanti per quello. E soprattutto la riforma che è sulla governance, cioè sul modo in cui funzionano le popolari, non c'entra nulla con l'aumento del credito alle imprese. Ecco, ma secondo lei come andrebbero riformate le banche popolari allora? E ci sono i titoli di Stato, ma va fatta sul patrimonio netto. Patrimonio netto senza avviamento. Se fosse stata fatta su patrimonio netto si sarebbero accorti che alcune banche popolari considerano un'azienda ad altissimo rischio che è oggettivamente opaca ed è stata commissariata. Ecco, il 19 l'Asso Popolari farà, cioè l'Associazione delle Banche Popolari farà la loro proposta di autoriforma, insomma di riforma delle banche stesse. Lei cosa si aspetta? Si aspetta qualcosa che sarà recepito o no? Io mi aspetto che Asso Popolari stesse ribadisca un concetto: i meccanismi di partecipazione al voto devono essere trasparenti e devono essere chiari, è necessario aumentare la quota di ogni singolo socio, io penso fino al 3%, e spero, mi auguro che si capisca... Dice più del 3% no, perché più del 3% si apre una possibilità di scalata, insomma. Ma sostanzialmente non se vogliamo che restino banche popolari, sì, naturalmente. Se poi vogliamo che diventino banche ordinarie o banche globali, va bene, bisogna dirlo, limite. Bisogna dirlo. Basta dirlo e ecco, si dice che noi non crediamo più nel modello di capitalismo italiano, un capitalismo territoriale e familiare. Che invece Germania viene protetto e difeso. Certo. Ecco, che cosa allora dovrebbe fare il governo che Padoan non ha fatto, non ha detto secondo lei? Una cosa chiara e forte. Dire in Europa che le banche sono corte di capitale, che il regulator è anticiclico, che tradotto significa che in Europa se le banche italiane prestano i soldi alla piccola impresa non devono essere penalizzate, ed è quello che capita oggi. Chi ci ascolta deve sapere che i soldi ci sono, ma non arrivano alle imprese. E allora i 60 miliardi al mese che Draghi mette a disposizione del sistema attraverso il quantitative easing, oggi ci consentono di dire che non è più necessario che le banche acquistino titoli di Stato. Ma mentre le banche acquistando titoli di Stato non rischiavano nulla, certo, se quelle risorse che hanno disponibili le prestano alle imprese, quel prestito impatta sulla patrimonializzazione delle banche. E come questo, si fa a... questo limite porta le banche a non prestare soldi. Padoan, mi permetto di consigliargli, diciamo, anziché fare questa battaglia per un decreto che ora vedremo di aggiustare in Parlamento per renderlo, diciamo, il più light possibile, uso una parola che sta a cuore al Presidente del Consiglio, sarebbe opportuno battere, ma in maniera vigorosa, i pugni sul tavolo in Europa per cambiare le regole lì, perché se noi consentiamo alle nostre banche di prestare i soldi alle imprese senza sentirsi dire che poi devono fare un aumento di capitale o devono rafforzarsi dal punto di vista della... Insomma, i soldi di Draghi devono servire alle imprese. Non c'è dubbio. Per essere sicuri che capiti, una cosa da fare. Per essere sicuro che capiti bisogna pretenderlo e dirlo con forza e il giorno dopo chiedere alle banche, dopo la prima operazione di 60 miliardi al mese, bisogna imporre alle banche che quelle risorse devono essere che prestate. Che facciano vedere dove li hanno messi, va bene, vedremo come va a finire. Grazie onorevole Boccia, 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, che Daniele Doglio, professore di economia dei media, nostro collaboratore. Oggi noi torniamo a parlare dei grandi accordi fra i competitor internazionali nel sistema dei media, perché è un tema caldo anche questo ed è sul tappeto. Senta, professore, cosa ci ha detto Tarak Ben Ammar qualche tempo fa? Telecom, come tutte le grandi compagnie di telefonia, Spagna, America, hanno bisogno del quadruple play, devono fornire telefonia fissa, telefonia mobile, internet e televisione. Dunque, i contenuti saranno necessari. Telecom ha già un accordo con Sky, sì, ne farà uno con Mediaset. Ma cosa vuol dire quadruple player, come dice Tarak? Vuol dire fondamentalmente la possibilità di gestire e trarre ricavi contemporaneamente da quello che era il vecchio mestiere dei telefonici, la telefonia fissa, da quella mobile, dagli accessi a internet e adesso anche dalla televisione, in un'ottica che è quella dei servizi a banda ultralarga sempre più diffusi capillarmente. Bisogna tener conto che, prenda l'Italia, gli ultimi dati dicono che noi abbiamo, come noto, il numero più alto di smartphone per abitante. Sì. Solo il 50% viene utilizzato per telefonare, il resto serve a chattare, a fare ricerche in internet o a consumare contenuti, certo, musica e video, e quindi i ricavi si stanno spostando da quella che prima era il business principale delle telefoniche a queste nuove aree dove c'è una potenzialità di ricavi premium. Ecco, professor Doglio, in America nel 99 l'American Online e Time Warner avevano tentato una convergenza finita male. Perché si riprova? Perché evidentemente c'è lo stesso tipo di contesto finanziario e borsistico che c'era alla fine degli anni del secolo scorso. Cioè una bolla. Ho l'impressione che più che una bolla c'è, come noto, lo dicono tutti gli analisti di borsa, una massa gigantesca di capitali, di liquidità, che sono costantemente alla ricerca di... Sono due culture che hanno fattori dirimenti molto diversi una dall'altra, basti dire che chi produce contenuti è abituato a cercare di immaginare che cosa vuole un pubblico, a proporglielo, mentre chi è abituato a fare o telefonia o internet tendenzialmente è abituato a costruire un rapporto molto preciso, cosiddetto interfaccia utente, con il proprio pubblico e a conoscerlo in maniera sempre dettagliata in modo da potergli proporre sistematicamente quello che lui vuole, ecco, i servizi. Ecco, professor Doglio, le cose sono un po' diverse. Ecco, professor Doglio, anche Vivendi, la società francese di media e comunicazione, è rimasta in qualche modo schiacciata in passato dal tentativo di fondersi con altre società. Lì com'è andata? Ma lì gli è andata un po' meglio che a American Online e Time Warner, perché bene o male Vivendi, attraverso la doppia acquisizione di MCA che gli ha portato in casa Polygram e poi Universal, il cinema di Universal, ha fatto una grandissima differenziazione, però ha portato in casa valori talmente forti che, essendo riuscita a resistere nel tempo, hanno dovuto cedere tutta una serie di business importanti che appartenevano, perché non è più sufficiente controllare reti o accesso agli utenti. Ci vogliono i contenuti. Bisogna avere contenuti e per fare più traffico bisogna aggiungere fonti di ricavo. Certo, ma su quali contenuti si sta giocando la battaglia più grande, più dura? Allora, in questo momento la battaglia grossa è sulla produzione delle fiction seriali, uno dei contenuti che attirano forte, di più, e in prospettiva naturalmente lo sport. Nel momento in cui lo sport dovesse diventare argomento di questo genere di trattative, entrano in campo dei colossi che sposteranno sicuramente i pesi e le misure di quello che è stato fino adesso. Proprio per parlare dei diritti sportivi, sul fronte delle pay si muove qualcosa. Sentiamo ancora Tarak Ben Ammar, che cosa ci ha detto. Senta, dottor Ben Ammar, lei ha detto che l'ingresso di Mediaset nel mercato delle pay è stata una mossa geniale. Perché? Ma perché un gruppo di media oggi non può vivere soltanto di un ricavo, deve essere in tutti i ricavi possibili, tutte le piattaforme, tutte possibili, le piattaforme digitali ovviamente. Ecco, quindi si arriverà a un accordo tra player globali sulla pay in Italia? Io lo auspico, lo auguro, anche perché è l'unico paese dove ci sono due pay e non c'è spazio per due, dunque qualcosa dovrà succedere. Quindi diciamo Berlusconi e Murdoch, che gli piacciono, fanno l'accordo? Tanto si amano e si rispettano. Io farei di tutto se è possibile che ci sia una piattaforma e non due. Insomma, pensa che capiterà? Penso di sì. Ecco, professor Doglio, lei ha parlato proprio di diritti sportivi. Mediaset Premium ha comprato i diritti della Champions League e del calcio per 700 milioni di euro e quindi li ha sottratti a Sky. Però adesso deve fare gli abbonamenti che richiedono un business del genere, cioè ha bisogno di andare a break even. Quello che dice Ben Ammar mi sembra che stia nell'ordine naturale delle cose. Sta nell'ordine naturale delle cose, nel senso che è vero che in nessun mercato europeo esistono due operatori di televisione a pagamento. Soprattutto col problema dei diritti calcio è molto complicato. L'ultimo dato, prenda sempre la Gran Bretagna che è un mercato leader in questo senso, lì i diritti della Champions li ha acquistati British Telecom, cioè un operatore di telecomunicazioni, pagandoli 1 miliardo di sterline, quindi molto di più di quello che Mediaset ha pagato i diritti Champions per l'Italia. E quindi è inevitabile che ci siano da una parte nuovi operatori e dall'altra fusioni tra operatori tradizionali. Professor Doglio, dobbiamo aspettarci, secondo quello che ha detto lei, Telecom come prossimo competitor all'asta dei diritti calcio. Assolutamente ragionevole, a meno che non arrivi prima qualche operatore internazionale. Vabbè, che d'accordo. Si porta via i diritti italiani. D'accordo. Professore, un'ultima cosa. Netflix produce serie TV come House of Cards che vincono Golden Globe e tanti altri premi. Ecco, è possibile competere con questi giganti mondiali di internet che si sono messi a fare i produttori? È molto difficile, perché il motivo per cui si sono messi a fare i produttori è perché per loro è strategico essere in grado di fornire un'offerta specifica di cui sono proprietari integrali e non più debitori dei diritti originali, esatto, ai produttori televisivi o cinematografici. Aggiunga a Netflix che Amazon, che ha vinto anche lei con, certo, una serie televisiva Transparent, Golden Globe, eccetera, eccetera, ha annunciato che produrrà 12 film all'anno per la sala. Sì. Netflix ha annunciato che produrrà 20 serie televisive in 2 anni. che ha in programma di entrare in 200 mercati nei prossimi 2 anni. Sono dimensioni, è un salto di paradigma, è un'altra cosa, sarà molto molto difficile. Molto difficile, quindi, professor Doglio, per chiudere, mentre i grandi produttori di contenuti cercano le alleanze, il mondo di internet brucia le tappe, possiamo dire. Sta scappando via, non sarà facile metterlo sotto, perché sta cambiando proprio il modo in cui la gente consuma audiovisivo. Appunto. Parliamo più di televisione e basta. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Tanto saluto Mario Secchi, che dal suo letto di dolore oggi ci accompagna. E prima di dare la pubblicità, Mario, volevo chiederti una cosa. Dice Dario da Modena, ci dice: ma Boccia è dello stesso partito di Renzi, che dici? Secondo te? Bella domanda. No, io mi chiedo perché abbiano fatto il decreto per arrivare poi in queste condizioni in Parlamento. Va bene. È una domanda che ancora non ha una risposta. Mix 24. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola che non è realtà. Allora, oggi come andava? Oggi mi sono accorto di un signore che sta seduto sui gradini dell'ingresso della metropolitana Roma Cornelia e se ne stava seduto a fumare una sigaretta al mentolo, che era annunciata dal profumo e dal colore azzurro di quelle sue sbuffate nervose. Ho parlato con lui e ho scoperto è un professore di filologia bizantina, e siccome molti lo scambiavano per un mendicante, lo scansavano, lui ha sorriso su questo, spiegando come ogni favola sia un gioco risolta col tempo, così come questa canzone di Edoardo Bennato. Dopodiché, a chiunque si fermasse con lui per avere delucidazioni sulla filologia bizantina, lui regalava pietre da mosaico. E queste pietre da mosaico nelle tasche dei pendolari si sono trasformate lungo il viaggio del treno in un ippogrifo, i cui zoccoli stavano piantati nel tartaro e le ali invece accarezzavano il cielo. Soltanto a metà. Mario! Mario, ti è mancato Pietrangelo, eh? L'ippogrifo. Nel tuo letto di dolore. Ma cioè, mi sembra che stai abbastanza bene, però, dai. Sì, mica male, dai. Comunque rieccomi, Giovanni. Allora andiamo con le tue bolle. Grazie anche dei baci. Ecco. Ci mancava. Sì, mi mancava, anche perché ho una confessione da farvi. Di. E avevo un raffreddore speciale. Ah sì, una di forma che genere? Che si credeva estinta. Cioè? Un raffreddore sovietico, sì. Senti. Bene, Giovanni, allora, io qua dal mio letto di dolore, ancora sì. Grazie dei baci, Pietrangelo. Ancora insomma, altri. Ancora altri, ti baciamo grazie, tutti, grazie. C'è Sara che ti bacia dalla regia. Fantastico, è lenimento per le mie ferite. Insomma, sì. Uno non fa in tempo ad ammalarsi, Giovanni, e che scopre che qualcun altro vuol partire in guerra. Calma, ha detto Renzi. E posso dire che ha ragione. Allora, sapete quanto è grande la Libia? Come l'Alaska, che è il gigante americano. Bene, secondo te quanti soldati ci vogliono per controllare città costiere, pozzi di petrolio? 1.759.000 chilometri quadrati. Allora, la Libia è sembra picco volte de Paperis. L'Iraq, no? Quattro volte l'Iraq. Quanti soldati servirebbero per la Libia? Ragazzi, la verità è che le guerre non si improvvisano. Ne abbiamo già fatta una nel 2015, nel 2011 per far cadere Gheddafi. Un grande errore. Tutti come è andata. Allora, per non ripetere l'errore, prima si stabilisce cosa fare, poi come intervenire, poi chi governa, poi nel caso si andrà anche a morire. E i francesi mi sembra che vogliono completare l'opera subito, hanno fretta. Sì, lasciamoli fare. Salamino! Contrordine, compagni! Le dichiarazioni di guerra dichiarate a bocca piena, a mezza bocca e perfino via. Lo ha riformato Anche Romano Prodi ha richiesto di intervenire nella scena di crisi dall'Iran, perfino Marrenzi in verità ha smentito di aver affossato l'ipotesi Prodi, poi ha chiarito di volere l'ONU, e cioè senza America e senza Russia non si canta messa, anzi no, non si può fare nessuna missione militare, e ha richiesto, insomma, le cose finiero. E c'è solo una soluzione, una. Quale? Che è quella più lungimirante, quella che conosce le tattiche e le paratattiche, la persona che nessuno potrà accusare di intelligenza, ovviamente con il nemico, ed è Federica Mogherini. Le hanno detto porta la campagnola e lei ha portato questo. Sara, tocca a te. Io Sara, stasera non ho sentito vibrare la partita IVA che abita nei nostri cuori, signori. Questo bisogna dirlo, Vittorio. Ecco, sempre alle partite IVA bisogna pensare. L'associazione ACTA, che riunisce tutti i freelance, organizza per domani una manifestazione dalle 10.30 a Piazza Montecitorio. Sono giornate importanti queste perché per le partite IVA, perché siamo in odor di riforma della riforma. E noi le seguiamo sempre. Esatto, e ACTA ancora di più perché vorrebbe semplicemente regole certe e garantire più diritti. La chiamano realtà. E Susanna ti ringrazia, Sara, da parte di tutte le giovani partite IVA per la tua battaglia continua. Pietrangelo. Tutti sanno cos'è il Nunzio Vobis, è l'annuncio con cui si presenta al mondo il nuovo Papa. Il 28 febbraio 2013 Benedetto XVI rinunciava al soglio pontificio. Il Sole 24 Ore ha presentato in anteprima un libro che fa discutere. Un Papa dialoga col proprio accusatore, Sergio Claudio Perroni è l'autore. Che cos'è Renunzio Vobis? Renunzio Vobis è il titolo che ho dato al romanzo che ho scritto sulla subitanea e sorprendente e per molti ancora inspiegabile rinuncia di un Papa al proprio mandato e per alcuni al tradimento della missione di seguire il proprio gregge fino all'ultimo sacrificio. E quindi Renunzio Vobis, rinuncio a voi e al mio mandato di nunzio della parola. E qual è la scrittura di Renunzio Vobis? Perché leggendolo ho colto una novità. Una novità antichissima. I personaggi sono questo papa che si è ritirato in un monastero e un misterioso frate che poi rivelerà la propria natura inaudita, diciamo così, e si confrontano sulle ragioni di questa rinuncia. L'ex papa, ora dottore, sostenendo motivi più materiali, e il frate incalzandolo con la sua responsabilità, ed entrambi ricorrono sia per la loro formazione ma anche per una sorta di leva emotiva più che dialettica, istintivamente ricorrono a un'espressione che si avvale solo delle parole della Bibbia, di cui sono intrisi ma che avvertono proprio come strumento, come paradigma dell'animo umano, quale effettivamente la scrittura della Bibbia è. Un duello quindi. Dibattono a versetti della Bibbia. Quindi un duello attraverso una lingua di Dio. Che è la lingua di Dio applicata all'uomo, perché il grosso interrogativo di questa rinuncia è quanto sia giusto abbandonare quella che è, almeno a mio avviso, la vera natura umana del divino cristiano, ossia la rottura rispetto alla tradizione del cristianesimo in cui la natura umana del divino si rappresenta come esempio, è il primo. Renunzio Vobis. E Franca da Roma fa tantissimi auguri di pronta guarigione per il grande Mario che tornerà qui da noi. Non lo vogliamo sforzare troppo, anche perché siamo brevissimi oggi, perché dobbiamo raccontare un'inchiesta giudiziaria che avrebbe segnato per sempre la storia politica del nostro paese, la storia di Tangentopoli. Il 17 febbraio del 92 inizia con l'arresto di Mario Chiesa. Marina Milone racconta un'inchiesta realizzata da Carlo Durante, Marco Fiorini e Massimiliano De Santis.